tua misericordia, tu misericordioso, o nostro Signore, tu radunerai tutti gli uomini in un giorno sulla cui venuta non vi è dubbio. Dio mantiene la sua promessa. Pari a 16 metri. Il programma serale va in onda dalle 19.30 alle 20, ora di Greenwich, sempre in onda con oltre sulle seguenti frequenze. 7.315 kHz, pari a 41 metri. 9.755 kHz, pari a 31 metri. La replica per Teheran in modulazione di frequenza va in onda dalle 9.30 alle 10.30 UTC. 99.5 MHz, gentili ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito italian.it.ir per ascoltarci dal vivo o in differita, oppure leggere le ultime notizie, i commenti e le opzioni speciali. Cari ascoltatori, vi parla Mahmoud, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera, venerdì 10 maggio 2013, prevede in apertura il notiziario a compagnia sonna prevenuta. Nella parte conclusiva vi presenteremo un programma sul cinema iraniano. Ora diamo spazio alle notizie. Rimani con noi. Cominciamo come di consueto con i principali titoli. Iran, sermone preghiera venerdì a Teheran. Siria. Ok, Iran, conferenza di pace. Siria, Putin. Cameron propone misure congiunte per soluzione. La religiosità, rispetto per la suprema guida e rispetto per le leggi sono doti che il prossimo presidente iraniano dovrà avere. Sono detto oggi la guida della preghiera di venerdì a Teheran, Ahmad Khatami, citato da Virna. Se il prossimo presidente abbia questi doti, l'Iran non sarà mai soggetto per i complotti dei nemici e non correrà mai i rischi. E in seguito, dopo aver accennato a costi compiuti dall'Occidente per allontanare il popolo dalle urne, ha detto che i nemici devono sapere che anche questa volta, come quelle precedenti, i loro complotti vengono neutralizzati dal popolo iraniano. Khatami infine ha definito la massiccia partecipazione del popolo alle urne come un fattore importante per sconfiggere vari complotti orditi dei nemici nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Abbiamo pagina, sì, il vicepresidente iraniano Mohammad Javad Zarif ha autorizzazione per la proposta di organizzare una conferenza sulla Siria per porre fine al conflitto. L'esponente iraniano, in un'intervista rilasciata alla Reuters da Ginevra, ha auspicato che l'appuntamento si tenga nella città di Svizzera e si aspetta che l'Iran sia coinvolto. La Repubblica Islamica sarebbe felice di partecipare e ci aspettiamo di essere parte del processo che porta alla pace della Siria. Il premier britannico David Cameron ha proposto a Vladimir Putin una serie di possibili passi congiunti per arrivare ad una soluzione della crisi siriana. L'iniziativa del primo ministro britannico, abbiamo discusso possibili scenari e sviluppi positivi per questo processo. C'è una serie di possibili passi da intraprendere congiuntamente, ha detto il capo del Cremlino, che oggi ha incontrato Cameron a Sochi sul Mar Nero. Mosca non ha intenzione di vendere i sistemi di difesa antiaerea S-300 alla Siria, completando le forniture di armi in base di precedenti contratti. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, citato dalla giornalista Itasat. Ban Ki-moon, Israele deve liberare i detenuti palestinesi. New York Israele deve smettere di costruire centri abitati nei territori occupati e liberare i detenuti palestinesi dalle carceri. Sono i passi necessari per riprendere il processo di pace palestino-israeliano, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon a New York. Migliaia di persone hanno partecipato alla protesta contro Israele in determinazione dei musulmani alla moschea di Al-Azhar. Manifestanti hanno protestato dopo la preghiera del venerdì contro l'attacco alla Siria, il fermo della Mufti di Gerusalemme e gli attacchi sionisti contro la moschea di Al-Aqsa. Abbas Israele è nostro nemico, hanno scandito i manifestanti incitati da Muhammad al-Batavi della confraternita, la nostra battaglia e la liberazione della Palestina. Libia. Gli americani devono poter leggere lo scambio di email o ordine collegate all'attentato al consolato americano di Benghazi in Libia lo scorso 11 settembre. E di questa idea il presidente della Camera americana, il repubblicano John Boehner, si è chiesto a Barack Obama di autorizzare la pubblicazione dei documenti. Tra le email che sono state mostrate ai membri del congresso ma non possono essere diffuse pubblicamente, ce ne sarebbe una che secondo i parlamentari repubblicani dimostra che l'amministrazione Obama ha cercato di coprire la convinzione che si trattasse di un attentato terroristico e non, come detto erroneamente all'inizio, che fosse una protesta anti-americana e sfuggita al controllo. Come riporta il Washington Post, la richiesta arrivata all'indomani in un'audizione alla Camera sulla questione mostra innanzitutto che i repubblicani non intendono smettere di accusare l'amministrazione di avere commesso irregolarità e avere mal gestito la situazione prima, durante e dopo gli attacchi costati la vita a quattro americani tra cui l'ambasciatore Christopher Stevens. Reazioni Pakistan, chi domani si recherà a votare lo farà a rischio della propria vita. E questo l'avvertimento lanciato oggi alla vigilia delle elezioni generali in Pakistan dai talebani pakistani PTP. Lo scrive nella sua pagina online il quotidiano The News. Il giornale riferisce la sostanza di una conversazione telefonica con una agenzia di stampa internazionale del portavoce del PTP, Ossanollo. E questo è stato l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Italia, incontro Letta Farò. Il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, si dice contento della decisione del governo Letta di confermare l'impegno a un deficit sotto il 3% del PIL, elemento essenziale ai fini della fiducia degli investitori per un paese con un alto debito pubblico. Sono stato colpito molto favorevolmente dal forte impegno europeo del Premier Letta e sono felice che il nuovo governo sia impegnato a portare avanti le riforme economiche e gli obiettivi di bilancio del programma di stabilità. Questo Barroso alla conferenza The State of the Union a Firenze. Avere i conti in ordine è particolarmente importante, l'alto debito pubblico dell'Italia ed è un sine qua non per la fiducia, la crescita aggiunto. Il capo della Commissione Europea ha detto anche una agenda basata su riforme strutturali ed ampio spettro è essenziale per bloccare il lungo declino della competitività italiana e spingere le esportazioni, ristabilire la capacità di crescita e creare posti di lavoro e ridurre la pressione sui conti pubblici. Sono fermamente convinto che l'Italia riuscirà a raggiungere questi obiettivi, ha detto ancora Barroso. Ha sottolineato come l'Italia e altri paesi europei soffrano di una diffusa frammentazione finanziaria con omogenea condizioni di credito alle piccole e medie imprese che sono un serio ostacolo alla crescita e rendono prioritaria l'Unione Bancaria Europea. Le rilevazioni sugli impegni mostrano che il problema non è solo la domanda, ma soprattutto la differenza tra gli Stati, che è più legata alla posizione geografica che alla qualità intrinseca dei creditori, ha detto Barroso. La Commissione sosterrà tutti gli sforzi per risolvere questo problema, la frammentazione finanziaria e migliorare le condizioni di accesso al credito, ha detto, aggiungendo che l'Unione Bancaria è una priorità su cui non si deve abbassare la guardia. Della Repubblica Islamica dell'Iran. Milan Dani è la prima industria cinematografica del Nuovo Oriente. La regione seconda dopo a quella dell'India e la settima del mondo intero. Noi da qualche settimana abbiamo iniziato con una singolare e nuovissima trasmissione su Radio Italia Egip che ripresenta il cinema dell'Iran, che ha dimostrato nel corso degli ultimi decenni la sua classe e il suo fascino, soprattutto perché è in grado di guardare la realtà e una cultura del tutto nuovo. A tra poco. La settimana scorsa abbiamo iniziato il racconto sulla storia del cinema in Iran ed ora per seguire tale discorso. Negli anni 40, dopo l'occupazione dell'Iran, a detta degli alleati, i sovietici iniziarono ad occupare le sale del cinema, anche le città dell'Iran. Una dei proprietari di cinema di quell'epoca racconta: dopo l'occupazione dell'Iran tramite gli alleati, i russi erano stati in Iran direttamente il cinema e, pretendendo tasse e pesantezze, divennero di fatto i nuovi padroni del cinema iraniano. Loro, con la proiezione di necessari russo, facevano filosofia al comunismo e da loro in comunità. Inviavano anche loro attori di teatro, gruppi da opera e orchestre a Teheran e altre grandi città come Azerbaijan, Khorasan e Gilan. Per indottrinare le griglie, annunciavano che l'ingresso ai loro spettacoli era gratuito e di solito invitavano diversi gruppi a vedere questi spettacoli. In questo periodo gli inglesi si comportarono in maniera leggermente differente. Loro, come primo passo, fondarono l'Accademia Culturale Iran-Inghilterra e poi cominciarono a tradurre film, notiziari e documentari di guerra. Loro pubblicavano anche giornali sul cinema e di film. Questa rivalità tra gli italiani e stranieri in Iran nell'uso strumentale del cinema e tutto ciò che si era formato con il cinema nazionale iraniano. Esce finito in Iran un primo film parlante intitolato Tempesta della vita, creato da Ismail Hoshan, creato della Misa Film Company e diretto dall'attore teatrale Alidaio Apesi. Questo film non è per successo e, seguito da altri successi, porta la Misa Film Company al fallimento. Nel 1950 viene fondata la Iran Film Studio da Kadir e Mansoori, società che produce e produce film girati in Iran e conquistarono i favori del pubblico. I primi due successi sono Vergogno e Vagabondo. In essa così un'epoca prospera per l'industria del cinema iraniano che nel 1965 raggiunge la produzione film e di seguito va costantemente sviluppandosi. Negli anni tra il 1952 e il 1968 vengono fondati 58 studi cinematografici e 124 nuovi registri iniziano a lavorare in questo campo. Iniziano ad emergere i primi tratti distintivi del linguaggio cinematografico iraniano. Comincia la prima novella vague, ovvero la prima generazione di cinearti. Le prime fasi della novella vague iraniana vede registi che subito destano l'attenzione dei critici di essay internazionali. Tuttavia, i film realizzati in Iran in questo periodo rappresentano una minima parte rispetto alla produzione complessa. A dominare il mercato sono ancora film commerciali e stranieri. Nel 1979 la produzione comincia a ridursi. La situazione comincia a stabilizzarsi nel decennio successivo alla rivoluzione iraniana, mentre l'industria cinematografica non riesce a risollevarsi. Nel 1983 il governo prende alcuni provvedimenti per risollevare l'industria. In particolare, i provvedimenti mirano ad incrementare la produzione e a frenare l'importazione di pellicole straniere. A tale scopo viene creato la Fondazione Farabi, che fornisce sussidi per la produzione cinematografica iraniana.